Il sabato del villaggio. E nella terza ora il sabato del villaggio si cambia d'abito e diventa RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, la terza ora di RadioTube, la terza ora del sabato del villaggio, la prima ora di RadioTube, la mia preferita. Questa ora comincia a essere un po' bollita. Ma sai tre che ore sì? di RadioTube, ma sai che sì? Ma tu reggeresti no, tre no, ore di Marta? Reggo mezz'ora con te. Reggo mezz'ora, infatti la seconda. Dunque, noi siamo qui per mandare alla radio i video più visti in rete. È venuta facile facile. Bella, mi voi piace come definizione. Voi potete scriverci a @MartaCagnola, @DiBellasio. Questo è RadioTube, cancelletto RadioTube. Invece per il sabato del villaggio, cancelletto ISDV. Mi avevi promesso che... Allora, la scorsa settimana ti ho tenuto sulle spine per un'ora, sì. Ma sì, parliamo della tua serie preferita, la tua serie preferita, parliamo della tua... No, dai, parliamo della tua serie preferita. Parliamo della serie preferita, però la prendiamo alla lontana, intanto prima con la musica. Allora, entriamo in atmosfera, come si entra nell'atmosfera della serie preferita di Daniele Bellasio. Ma ce l'ha presente, allora, è una sì. serie che parla di un politico sì. affascinante, sì. un politico un po' sprezzante, sì. un po' cinico. Claire, la moglie di Frank Underwood. Ma come Frank Underwood? No, non è Frank Underwood. Chi è? No, un politico cinico, sprezzante, un bell'uomo, è lui, eccolo qua. Non credo che Renzi sia una persona che si scolli facilmente dalla poltrona di capo del governo, quindi è inutile avanzare delle richieste irrealistiche, io sono un uomo dotato di senso della realtà. Ma era Frank D'Alema Wood. Io questo collegamento che hai creato qui, allora, non abbiamo capito. Allora, un politico cinico, sì. sprezzante... Sante. Molto affascinante. Molto affascinante. Non è sì. il protagonista della tua serie preferita, Frank D'Alema Wood. Hai mischiato un sacco di cose, perché poi parte della descrizione poteva andare anche a Matteo. A Matteo Renzi, anche dici? A Matteo Renzi, il grande amico, come abbiamo sentito, di Massimo D'Alema. E poi hai mischiato i temi, quindi mi sono perso. Quindi, allora, abbiamo un po' di temi sul tavolo. Sì. La politica. Sì. Se i leader sprezzanti. No. I leader sprezzanti. Massimo D'Alema, che sì. in questi giorni è un po' di attualità. Sì. E una grande serie televisiva americana che è, sì, scherzi tutto, a parte, House of Cards. Tutto mischiato dentro, ne parliamo con... Con una persona che capisce di tutti questi temi, a differenza di me, quindi io oggi voglio imparare da te sì. e dal nostro ospite un sacco di cose. A me piace moltissimo perché nella sua bio di Twitter si definisce semplicemente giornalista e scrittore, meglio di così. Romanziere, capo della comunicazione di Massimo D'Alema, Palazzo Chigi. Buonasera Fabrizio Rondolino. Buonasera, che presentazione imbarazzante, siete troppo buoni. Allora, sì, e anche molto confusionari, da dove vuoi partire? La realtà che supera la fantasia, la fantasia che supera la realtà. Dai, partiamo dall'attualità, mi raccontate perché è da ieri che ci si chiede se i telefonini prendono in Iran. In Iran oppure no, cosa è successo? Fabrizio. Spiegatemi, Daniele, comincia a raccontare cosa è successo. Ma no, Massimo D'Alema è sceso da... Sai che Fabrizio Rondolino sa benissimo, lui si occupa quasi solo più di cultura, politica internazionale, vino. È sceso da un aereo, era in Iran e niente, appena acceso il telefonino, perché in Italia prende, in Iran no, ha detto anche quale compagnia telefonica sì. e niente, ha fatto un'intervista alla Toccopiano contro Renzi, ha detto che ormai niente, è tutto c'è hashtag una classe la Toccopiano. Arrogante dirigente che si è impossessata del PD e che insomma, e questo ha creato nei social proprio un diluvio di commenti. E quindi noi chiediamo a Fabrizio Rondolino come ha letto lui questa intervista. Punto, secondo me, chiave quello della rottura sentimentale, e che era il tema di un'altra intervista fatta anche questa al Corriere della Sera, è fatta, pensate un po', appena tornato dall'Arabia Saudita. Quindi c'è questa cosa, cioè, che D'Alema scende dall'aereo. Corsi, no, ma guarda, l'ho scoperto per caso, non che me lo ricordassi, però sono andato a rivedermela e ho scoperto che quell'altro iniziava con sono appena tornato. dall'Arabia Saudita. Quindi questi viaggi all'estero, d'altra parte capita anche a noi, no? Quando andiamo all'estero l'Italia ci appare più brutta, non c'è niente da fare. Però quando vado io all'estero non c'è nessuno che mi aspetta sotto l'aereo per sapere cosa ne penso, il che vorrà dire qualcosa. vabbè, ma insomma è sempre una personalità, no? Adesso forse certo. Un po' ammaccata. Però insomma il problema è questo qui della rottura sentimentale, cari miei, cioè di un ricambio che non è soltanto politico, generazionale, ma che è anche antropologico, culturale, non so come altro definirlo, in cui la sinistra compie la sua ultima, io credo, metamorfosi, no? Cioè abbandona per sempre la sinistra del Novecento. Il tormento ci sta tutto, ecco. Ecco, però prima Marta diceva una cosa molto giusta, secondo me, e diceva: quando io scendo non mi chiedono, invece a Massimo D'Alema c'è sempre veramente tanta attenzione, al di là dello spazio datogli dal Corriere della Sera, ma poi anche i video. Insomma, la mia domanda è un po' questa, però noi a un personaggio come D'Alema, che rappresenta un'epoca passata sicuramente, in un certo senso continuiamo a esserne attratti, cioè anche sui social, appena lui dice una cosa, anche solo per criticarlo, però sembriamo un po' innamorati. Io ho detto che il problema non è il D'Alema in sé, il D'Alema che è in noi. In me. Non trovi? Giusto. Ma perché? Tra l'altro lui appunto è detestatissimo, nel senso che ogni suo minimo gesto, minimo uscita, viene ingigantito, viene moltiplicato, viene... Quindi questo effetto va anche molto al di là delle sue intenzioni e credo anche dei suoi desideri. E dopodiché lui è un personaggio forte, io la risponderei così, non sono poi tantissimi personaggi forti in giro, anzi se dovessi dire, a parte la nostra guida suprema che ci conduce da Palazzo Chigi verso un futuro migliore, c'è soltanto Berlusconi e soltanto D'Alema. Al momento la nostra guida suprema però è questa, così sentiamo. Però a un certo punto arrivo lì e dico: e poi quest'anno inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria. Risata generale dei giornalisti stranieri. È comprensibile, però a me mi ha fatto arrabbiare. Perché non ridevano di me, loro ridevano dell'Italia. Io vorrei che quando oggi tagliamo le cravatte, quando noi oggi taglieremo la cravatta con l'abbattimento dell'ultimo diaframma, tagliassimo i pregiudizi che ci sono su questo paese. Io pensavo che le cravatte si tagliassero solo ai matrimoni. Sai che l'ho pensato anch'io, ma che è sta roba del... Ma io pensavo lo champagne una volta champagne per le navi. Per le navi, poi si tagliava il nastro. Per il tunnel, vabbè. Oh, non lo so, io non sono preparata su queste cose. Abbiamo il nostro... Cos'è un altro Frank Underwood? Un altro aspirante Frank Underwood? La guida suprema. Cosa vogliamo chiedere a Rondolino? Cosa hanno in comune, che cosa hanno non in comune dalle Renzi? Ottima domanda. Che cosa? Visto che, insomma, se c'è dell'attrito, l'attrito ci sarà per qualche ragione. Secondo me hanno moltissimo in comune. Naturalmente io sono interessato, perché vengo sempre accusato di essere un voltagabbana, perché appunto 15 anni fa lavoravo con D'Alema e adesso sono un fervente renziano, però rivendico la mia coerenza. E certo lo stile è diverso, la personalità è diversa, però facciamo per esempio l'elenco dei nemici, no? I nemici D'Alema chi sono stati? Il sindacato conservatore, la magistratura militante, la burocrazia. Tutte cose che più o meno ha fatto, ha provato a fare, anzi quasi sempre ha fatto anche Renzi. Quindi io li considero due grandi rinnovatori, uno interrotto per motivi che poi gli storici stabiliranno, diciamo così, e un altro invece ancora all'opera. Allora, sono curiosa di sapere se pensate che quest'opera possa andare avanti oppure no. Però adesso traffico. Facciamo una brevissimissima pausa per il traffico. Ma poi ci troviamo ancora insieme. Cars, quello vero. Perché è una settimana che Daniele vuole parlare di Frank Underwood, quello vero. Magari poi ci riusciamo, però tutto questo dopo il traffico. Radio Tube. Buonasera e grazie per aver scelto il TG Red, il notiziario della nuova rete televisiva teorizzata, pensata e voluta, sognata, realizzata e creata da Massimo D'Alema. Beh, ma Massimo D'Alema ha anche altri fan insospettabili. Comunque queste conduttrici, che poi erano Ambra Angiolini e Carla Signoris, era il 2008, hanno avuto la stessa reazione che hai avuto io. Tu quando hai che detto... bell'uomo! Quando parliamo di D'Alema, sì, pensa, 2008 era. Però, adesso? Anche meglio, è anche meglio, è invecchiato benissimo. No. No, allora, vabbè. Ha un fan anche negli Stati Uniti, Massimo D'Alema, sai? Ma no, dai. Ne ha più, ti ricordi? Bye bye Condi. Sentilo, sentilo. Do you watch House of Cards? Do you watch Scandal? What are your thoughts on those shows? You know, I watch House of Cards. I haven't seen Scandal yet, but Michelle has watched Scandal. I have to tell you, life in Washington is a little more boring than displayed on the screen. Ha detto che guarda tutti i giorni Massimo D'Alema, Barack Obama. Sì, più o meno ha detto questo. No, lui guarda House of Cards. Guarda House of Cards. E Michelle Scandal. Scandal. Beh, Scandal. Non poteva dire che guarda anche lui Scandal, perché in Scandal il presidente Fabrizio? Degli Stati Uniti ne fa di ogni. Fabrizio Rondolino, ce l'abbiamo ancora in linea. Ancora buonasera, Fabrizio. Tu lo guardi? Noi ci siamo un po' divertiti ad accostare i politici italiani a queste serie TV che tu segui? Sì, io sono un seriomane. Sia tutte e due, sia Scandal, devo dire che sono indietro di una stagione e mezza. Anche perché poi è diventata un po' una soap opera, era un po' più leggerino. A me piaceva quando era più cattivo, diciamo così, cioè più crisis management, quella roba lì mi divertiva molto. E House of Cards, mi mancano due puntate per finire la quarta stagione, quindi non posso spoilerare niente, ma sono completamente immerso dentro. Sei avanti, ecco, ma questo fatto sono che avanti, sono avanti, sì. E questo fatto, questo gioco che continua a ritornare, che le serie TV stanno influenzando la realtà le serie TV, no. La politica è solo spin, lo spin è solo politica, insomma questo dibattito qua ti annoia? Ma non lo so, da un certo punto di vista va avanti dai tempi di Alessandro Magno, perché è sempre stata la politica, è sempre stata rappresentazione, propaganda, manipolazione, no? E l'arte anche è sempre stata propaganda, manipolazione, eccetera, da un certo punto di vista naturalmente. E, no, per carità, non, la forza delle serie è di aver azzeccato una forma di racconto insieme popolare e colto, no? Che è capace di molti livelli di lettura, che era precisamente un po' quello che accadeva forse al poema epico piuttosto che al grande romanzo dell'Ottocento, cioè ciascuno ci trova dentro un pezzo della propria vita o un pezzo del mondo e però lo puoi fruire anche semplicemente come un bel fumetto, no? E forse molto banalmente è questa la ragione del successo. Ma Frank Underwood potrebbe essere un leader reale, realistico, posto che Michael Dobbs, l'autore di House of Cards, era stato di mestiere capo dello staff della Thatcher. Underwood potrebbe, noi ci siamo divertiti a paragonarlo appunto un po' a Massimo D'Alema, non in quanto diabolico, ma in quanto così un po' cinico, un po' sprezzante, ma potrebbe davvero in tutte le sue derive essere un leader reale, Frank Underwood? Ma guarda, per l'esperienza che ne ho io, ha ragione Obama, cioè la vita è molto più noiosa, la vita reale, dice a Washington, io posso dire quella a Roma, però se noi togliamo tutti i tempi morti e facciamo appunto quello che fanno i narratori, no? E mettiamo soltanto l'azione, e allora forse viene fuori Frank Underwood, nel senso che alla fine che cosa ci colpisce? L'assoluto cinismo di quest'uomo, no? I trucchi che continuamente mette all'opera, lui e tutti gli altri naturalmente. Poi ci colpisce anche che sia un democratico, perché noi pensiamo che solo i repubblicani sono cattivi, no? Mentre invece i democratici sarebbero tutti angeli. E però la politica è fatta così. La stessa politica si può raccontare West Wing, che è un'altra grandissima serie, che invece, dove invece il democratico è una specie di Papa Bergoglio che risolve ogni settimana i problemi del mondo. Però alla fine i trucchi sono gli stessi, soltanto che Sorkin li racconta come se fosse appunto San Francesco, mentre invece House of Cards li racconta come fosse il diavolo. Però quindi la mia risposta è sì, Frank Underwood è ogni bravo politico, lo dico senza cinismo, ma come dire, da un punto di vista tecnico, deve essere un po' almeno Frank Underwood. Serve guardare House of Cards a un politico, perché Renzi l'aveva consigliata? Beh, consigliava, adesso ma sì. Serve, qualche trucchetto si impara? Non lo so, francamente. No, io direi che quando uno fa politica già a un certo livello, quelle cose le deve già sapere. Giusto. Sì, è vero. No, la cosa interessante è che in questa fase, soprattutto in America, si intreccia con un personaggio tipo Donald Trump, che voglio dire è completamente diverso dal politico professionista, ma ha degli elementi di forza comunicativa, di spregiudicatezza, che in qualche modo lo fanno sembrare un bau bau globale, no, Fabrizio? Eh sì, però però Trump è tutto fuori dal palazzo, sì. Anzi, la sua grande forza, lui scompagina il Partito Repubblicano, perché poi il suo nemico numero uno oggi è il Partito Repubblicano, no? Semmai in questo c'è un'analogia con Renzi rottamatore, cioè che prende un partito, lo scala e lo disintegra, diciamo così. Però tutto il suo campo di gioco è tutto fuori dall'estate, in questo un populista classico, mentre c'è Underwood non si è mai fatto eleggere. Adesso spero che alla fine di questa quarta stagione ci siano finalmente le elezioni, però tra l'altro anche questo, esatto, l'ha detto analogie. Marta, vedi? Ma e no, questa così. È un'altra analogia invece con Renzi, quindi in Renzi, ma anche con Massimo Nostro, ma anche con il nostro Massimo D'Alema, certo che andò a Palazzo Chigi senza passare per le elezioni, ma oddio, insomma, anche tutti i presidenti del Consiglio della Prima Repubblica sono andati a Palazzo Chigi così. Va detto, diciamo, non è che potessimo votare ogni volta, appunto, che era, cioè, insomma, sarebbe stata una votazione. Si votava ogni sei mesi, quindi, come dire, tanto in America è bizzarro, capitò a Johnson e non so, cioè, chi altro diventare presidente senza, quanti invece in Italia è la norma. Prima del traffico io avevo buttato lì una riflessione che avrei voluto chiederti, visto che è ancora in fieri questa rottamazione, ma davvero si riuscirà a rottamare? A rottamare la vecchia Italia, tra virgolette? Cioè perlomeno la classe politica già sarebbe un inizio, forse è più facile rottamare la classe politica che rottamare i vecchi italiani. Guarda, un pezzo di, non lo so, diciamo anche qui, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, secondo me un buon pezzo di strada è stata fatta, soprattutto se non guardiamo soltanto la classe politica, ma allarghiamo il campo un po' anche, insomma, anche quello che succede nei giornali, certo. Quello che succede nell'industria, nella piccola, che adesso vedremo con la battaglia di Confindustria come si concluderà, però insomma c'è il tema del ricambio delle classi dirigenti, il fatto che comunque ci sono i quarantenni che stanno progressivamente sostituendo i 60 e 70 anni, e questo è un dato oggettivo che in parte è merito di Renzi, in parte invece no, è semplicemente il clima, diciamo, in cui Renzi si è infilato e di cui è stato anche capace di essere interprete, di essere in qualche modo il simbolo. Naturalmente la rottamazione deve essere un fenomeno permanente, non per forza generazionale, nel senso che non... Certo. Ci possono anche essere dei vecchietti che possono essere ripescati come dei giovani totalmente incapaci, no? Come ovvio, però deve essere permanente, cioè non possiamo pensare che il ricambio sia avvenga una volta ogni tanto e poi si chiudano le porte, le finestre, come altre volte è capitato in Italia. Fabrizio, un'ultima curiosità da appassionato di politica, è un po' politicista la domanda, ma qualcosa di significativo a sinistra del PD? Qualcosa di sinistra? No, di significativo. Qualcosa di sinistra. Di sinistra, di significativo a sinistra del PD nascerà secondo te o sta nascendo? No, guardate, io sono proprio convinto di no, ma lo dico non da partigiano, tra virgolette analista, come mi sforzo di essere, e quella storia lì si è conclusa, piccoli movimenti radicali, per carità, quelli ci sono, ci saranno sempre, però a sinistra del PD, come a sinistra dei grandi partiti socialisti europei, c'è il populismo, o a sinistra o a destra, certo. A seconda. In Italia questo spazio è occupato dal Movimento 5 Stelle. Se io abbandono il Partito Democratico perché per una serie di motivi, anche giusti per carità, e voto per Grillo, tra l'altro questo è già successo, sì. E continuerà a succedere, quello che noi chiamiamo la sinistra del PD è un piccolo ceto politico che non ha seguito, secondo me, poi magari mi sbaglierò. Vedremo. Che meraviglia questa. Grazie, riflessione. Fabrizio, abbiamo Rondolino. Scherzato un po', ma ha detto anche un sacco di cose, sì, serie. Sì, mischiato molto, ma grazie per essere troppo. Stato grazie con a noi. Ciao. A presto a Fabrizio Rondolino e noi ci ritroviamo tra pochissimo, musica. tra poco un sacco di musica. Massimo D'Alema. Sa una da cirra a coccoruno. Basteranno un minuto, rimina le mani, vanno a pure a cirra. Il problema non so quello. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Possono essere negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi ostacola i nostri progetti, di chi ruba i nostri risparmi e rovina le nostre giornate. Ma perché?

Allora, io voglio ricordare la forza di dire sì. Io veramente abbiamo ascoltato due frammenti di due pezzi, però sono 24. È qualcosa di straordinario. 24 duetti, due brani inediti, un brano corale, tutti insieme per l'AISLA, cioè a sostegno della ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. Mm-hmm. E poi davvero, ricordo anche che c'è l'asta per una bellissima opera del tuo sì. compaesano, l'ho scoperto sì, da sì, pochissimo. Sì, compaesano Marco Lodola. Marco Lodola, artista. Un'opera bellissima, sì, sì. Un cubo di Rubik luminoso che è l'asta è al link chartistars.com/laforzadidiresì, magari esatto. Adesso lo twitto al mio account @MartaCagnola, così è lo non... stesso numero di follower di Mengoni. Beh, ma sì, più o meno, più o meno io e Marco, no, più o meno la stessa cosa. Siamo lì. Grazie, grazie Ron per grazie essere a voi, stato con noi. Storia. Grazie davvero. Daniele, grazie bella, Marta che di avermi serata. Raccontato questa bellissima storia. Una mi storia piace tanto. Veramente bella. Grazie a Roberta Frisani e per essere stata con Cristian Goldoni, che come al solito tira le fila di tutto. Noi ci troviamo sabato prossimo. Ciao.